10, prego. Chi è avanti? Ui, avanti, avanti. Come? Come mai c'è stato così tardi? Non ce ne vogliano già, non ce ne vogliano. Lui è da... non me ne la zigana, non c'è da nessuno. Solo quelli più forti, senti, e boh. Ma almeno noi siamo vicini, sì, qui là. Poi il giorno della donna se la portava una cosa superata, neanche stanotte. Togli quell'eco già, che non si capisce quello che dici. Ecco qua. Cappa, cosa stavi dicendo? Ho detto che oggi una giornata a scendersene al mare a prendersi gelato con questo caldo, anche di sera. E io già me ne sto scendendo giù in strada, nel vicolo, mi metto la sedia, io, mia moglie, il disinfettaio, la voglia. E in casa non si resiste, c'è troppo caldo, non fanno aprire le finestre che entra il gas. Lo so, e purtroppo, io dopo cena quando c'è buio me ne scendo giù. Io praticamente mi sono fatto la doccia, sono uscito e sono di nuovo sudando. Perché così fuori c'è caldo e ti fa sudare, mala sorte. E poi questo tuo caldo umido, qua c'è caldo umido sempre, capito? Un macello. Io per quello adesso quando sale mia moglie mangio e dopo quando fa buio me ne scendo giù, mi sto fino a mezzanotte così e poi me ne salgo e mi curico. Sì, ho capito Natale. Vabbè, c'è troppo caldo in casa, non si butta. Io sono qualcuno a Pia Lugano e fanno mina Brataona. E infatti, io purtroppo adesso verso quest'ora, quando sale mia moglie, devo cenare, capito? Ho capito. E cenate un bel presto, perché cenate così presto? E se no dopo tocca farmi l'insulina più tardi, un macello. Che rimane, mi ne sono dimenticato e me l'ha giocata quando sono cazzato. E io più di una volta me la sono dimenticata quella della notte, mi trovo nel divano, poi me ne vado a letto e non ci penso. No, ieri solo me ne sono dimenticato e me l'ho fatta quando sono salito, però, capito? Quindi già va bene lo stesso. Oggi è giornata di zingara, di gelati, lui c'è un caldo che si può stare. Come fai a non mangiare frutta, a non mangiare roba che ti deve fresca? E infatti io già me lo sono mangiato un cremino a mezzogiorno. E poi c'avevo anche l'anguria. E adesso quando sale mia moglie lo stesso, faremo così. Quindi la glicemia è stata da 1000. E poi cos'è stata da 1000? A me non matta più di sudanto, compreso. Il cremino a me non me la fa salire. Se mangio altri gelati magari che c'è zucchero, magari lì non ce n'è zucchero, mi molto che te la fa salire, capito? È per quello che mangio sempre i cremini io. Non ne mangio né cornetto né altra roba, lo sai che me la potete avere da 1000. E anche il ghiacciolo te la fa salire, perché gli zuccheri devono mettere tutti i gelati, non è che magari il cremino ne ha un po' meno, ma c'è sempre. E lo so, ma non mi fa salire la glicemia, a me gli su mi interessa che non mi potesse la glicemia, se no manco di chi savi mangiato. Vabbè, io non ci ho sgarrato, ho mangiato l'anguria e quando io attacco, me la giù mangiato un mezzo. E mezza in due ce ne abbiamo mangiato di quelle piccoline, però io e mia moglie. Allora ci mangiamo l'altra mezza. Ambiziosi. Marco, tu ci stai refrigerando. Buonasera a tutti, sto entrando a gamba tesa, non so che ci sia. Sì, Tantalino e Gianni. E allora come va? Domani c'è un po' di tregua per la temperatura, si spera, mi stavo pensando anche a un gelato. quindi danno ristoro in estate. Sì, vabbè, io mangio sto ghiacciubi oggi, perché non si poteva stare qua in casa, c'è troppo caldo. Qua ti dirò già, qua in realtà siamo abbastanza bene, forse anche il cappotto, per quanto sia ancora allo stato grezzo, però sta un po' facendo da barriera contro il caldo, mentre prima si sentivi quasi i muri tiepidi dalla parte del sole, dalla parte del tramonto, capito già? Cioè questa parte dove sono io. È capace che essendo un isolatore isolate il caldo. Magari sono neri i pannelli perché non sono pitturati, sai, magari nero, quelli a graffite trattengono il caldo, però dopo tutto l'importante è non fare l'errore di aprire le finestre di giorno. Se devi cambiare l'aria magari le apri di sera, di notte quando il sole è già tramontato. Natali, ciao, riprendi. Ciao Marcolino, infatti io me ne scendo giù, me ne scendo e mi piglio il fresco quando fa buio, poi verso mezzanotte me ne risalgo. Figa, lo sento io questo rumore solo, sento come rumore sul segnale di Natalino, adesso non so perché, se è perché è più basso o se l'emissione è rumorosa, già niente, ti accorgi di niente. Prova Natalino. Ma, sono con 2 watt però, E se devo, tipo un'epoca. Ehi, tra il ronzio di alternata e l'avvento, o qualcosa del genere. Ehi, vabbè, magari l'antenna che è troppo aderente al muro, capito? E prende, non lo so, si tira qualcosa dietro. Guarda a vedere che ho aumentato un pochettino, a vedere se si sentono questi rumori come state dicendo voi. Sì, io li copio lo stesso, però non è un problema, è un po' di fondo, capito? Tant'è che credo fosse il QRM o l'atmosfera, eccetera. Bene, detto ciò io così quasi procedo. O mi prendo un caffè freddo, in realtà avevo più voglia di caffè freddo, quasi shakerato, col cubetto di ghiaccio, come lo danno al bar. Aspetta un secondo, vado in bagno pure tu. Sì, io me l'ho preso poco fa il caffè, però non freddo. No, io un po' freddo lo vorrei, quasi quasi me lo faccio, raffreddare, lo faccio un po' più lungo, al limite lo metto in freezer e lo bevo freddo, però più lungo, capito? Come se fosse shakerato che il cubetto lo annacqua un po'. Va bene. E quindi così dai, mamma l'hanno dimessa, a posto, l'hanno fatto tagliando, gli hanno fatto bene, lì sta bene, stavo bene anche lì, non è che. Però adesso è più regolare la situazione. E cazzo, oggi è arrivata da Cagliari Cristina, la dottoressa ha detto che ha parlato a Gaia, quella chirurga, e ha detto che vede un po' quella storia della mia gamba, capito? Devo operare, devo dire che dobbiamo operare, manco torna normale la gamba e posso andare e tornare. Sì, infatti va risolto perché poi se l'ostruzione avanza può fare cose peggiori, quindi è il caso di, se si può, di ripulirla, capito? E va bene, e voi come va? Sempre pochi siamo, non radio, cioè siamo, siete, io questi giorni non ho manco acceso. E ieri non c'era nessuno, ieri sono entrato e non ho acceso nessuno. Già, la verità, io certe volte lo accendo ma l'ho messo al minimo il volume oppure non entro proprio. Poi ieri, sai così, ieri era di dimissione, abbiamo ritardato un bel e poi eravamo stanchi. Vabbè, posso capire quando ci sono situazioni particolari, ma ieri era proprio una giornata, no, non è tratto una bassola, nessuno. E la propagazione com'è in questi giorni? La propagazione com'è? Ma io ero in mandalatorale stasera, stavo parlando con la Francia, c'era anche l'Italia, sì ce n'era, dai. Ho notato che certe volte anche in FM si fanno dei collegamenti notevoli, anche con i watt dell'apparato, senza usare lineari, certe volte la propagazione si apre ed è obbiù, si arriva al sud Italia, al nord Italia, un po' tutto, dipende dalla propagazione. Va bene, Natalino, riprendi. E sono andato a aprire alla 50 che mi ha suonato. KK. E così, dai. poi e vabbè, estate, poi c'è sempre la scuola, in estate la gente non entra perché va in giro, in inverno la gente non entra perché boh, c'è sempre la scusa, alla fine non entra nessuno. No, l'inverno già entrano, Marco, l'inverno già entrano, quasi di più che l'estate, per l'estate se ne vanno tutti a fare la passeggiata e fanno bene, è più bello esternare e andare fuori, chi può farlo è bene che lo faccia. Sì, se il clima è un po' più mite, perché veramente ieri era, sembrava un incendio, era aria d'incendio sembrava, invece era roba nordafricana. Oggi, vabbè, una via di mezzo, poi era ventilato oggi però, dal pomeriggio ha cominciato a muoversi l'aria. Stamattina sono uscita alle 8 a portare le cane, c'era scirocco, veramente ho caldo, la crimba, non si riusciva a respirare. Poi magari ha cambiato, si è arreggiato e un po' ha cambiato, però c'era vento di scirocco, vento caldo. Vabbè, io quasi quasi da procedo qua e vedo cosa c'è. Vai, io chiudo, tanto qua non c'è molta voglia di... Non c'è molta voglia, vedo che anche Natalino ne ha poca di voglia. E io ne ho poca voglia, però vi hai ragione, capito? E infatti non so se tenere la lanterna o la butto giù del tutto. Se quello non me la fa mettere sul tetto me la tolgo e boh, cosa è fatto? Farà niente di ben trendy. Ehi, vabbè. Ma tu sei sempre drastico, già c'è già te la fa me. Che cazzo sempre drastico sono? Per tutto quello che ho passato e che mi hanno fatto passare, non lo so se devo essere felice o triste, non lo so, dimmi lo tu. Cazzo, quella miglia si impiccassi, no? Con il cazzo di Lulu Bulveo. Sì. Purtroppo, se stavi là era un'altra cosa. Ma là non è possibile, perché era stato peggio, quindi... Questo è il meno peggio e purtroppo non si può vivere manco qua. Infatti se trovo un altro posto dove andare a abitare me ne sto andando, d'urgenza. Io mi avevo venduto una casa in campagna e me ne avevo abitato una città. L'ho affittata a mio nipote, cosa vendo? Cazzo già. Ok, non stava tutta la vita lì. No, tutta la vita no, perché gliel'ho già detto. Ma tu ipoteca, figlio di Angelo. E allora, cosa lascio? Due bambini sulla strada, sull'Africo, che l'hanno sfrattato da dove era, e allora gli ha affittato quella lì, se l'ha aggiustata. Ho capito. E adesso c'è vicino al padre almeno. Sì, per quello che gliele frega di stare vicino al padre. Vabbè, pazienza, anzi la chiesa di viva, cercatene un'altra di casa e te ne becco con Concetta a abitare. Eccomi. No, solo. Ah, solo? Ah, fuggiti di muri, scusa. Ah no, è di la Paola. Ah, la vuoi ripudiare, così è. Eoia. Non hai capito, a me mi piace stare calmo, che se mi incazzo me ne beviene un altro d'infarto. Sono sempre arrabbiato. Sì, già, comunque quel tipo è malfidato, cioè anche se gli fa mettere l'antenna sopra. Cioè, che garanzia ha che la prima volta che gli girano le scatole non gli faccia di nuovo danno e poi peggio non lo fa nemmeno accedere per mettercela a posto? Quello è un inghippo. E poi non può accedere, se deve alzare, se deve mettere tirate, fare qualcosa, non può accedere. Non fa salire una voce da buri, ti fai dare le chiavi, il doppione. È in casa sua che devi entrare, non hai capito. Lui la apre, in casa sua la deve aprire questa botola per poter salire. sul tetto, perché anche lui si deve fare l'antenna della TV nuova. Ah, ecco. E io non lo sapevo che ce l'aveva a casa sua, chi lo sa? Pensavo che fosse una botola così normale, perché a casa di mamma era nel pianerottolo la botola. Ma qua in che pianerottolo la botola? Lasciamo perdere, che meglio. Lui c'era la botola qua, l'hanno chiusa, capito, abusivamente. E come aprivi la botola scendeva la scala, era automatica, scendeva da sola. Capito? C'era la scala in ferro, di quelle pieghevoli, retrattili diciamo, che pieghevoli. E si apriva. Tu non fa diverso che assai, bu. Sono una figata a quella che hai detto già, che apre e scende la scala automaticamente. Ne avevo vista una da una amica di mamma quando ero piccolo. Sì, sì. C'era nel pianerottolo proprio dove abitavo io, all'ultimo piano, c'era. E una volta, siccome c'erano i soffitti fatti con, cosa ti posso dire, paglia, era pressata. Questo qui non ha messo i piedi sui tavoloni dove doveva camminare e cazzo si è fatto dritto un gas. Sì, comunque secondo me per motivi di sicurezza anche quelle case lì dovrebbero avere sempre un accesso alla tettoia, in modo che se metti che arriva un uragano tipo 2008, tu dici vabbè non capita, ma che scoperchiava tetti, faceva volare tegole o risultavano poi pericolanti che rischiavano di cadere in strada, cioè per manutenzione del tetto, perché una tegola rotta ti fa passare acqua e poi ti entra acqua nel soffitto, no? Che è all'ultimo piano, bisognerebbe sempre avere una bottola o comunque permettere di installarla anche senza tassazione, perché poi se chiedi una modifica al comune sempre ti tartassano, ti inventano gabelle, capito? E tu ci salivesi sul tetto con un regalo ti fa volare anche a te. No, non durante, ma almeno fare che ne so, riparazioni immediate o sgombrare il materiale pericolante subito dopo, capito già. Per fortuna noi, vabbè, in Viale Mameli già c'era la botola. Quando avevamo la Gran Play nell'84, anche lì c'era il terrazzo calpestabile comunque. C'era sia le tegole, però sia il terrazzo calpestabile. La Gran Plenidens ce l'avevamo lì, molto bassa, e eravamo praticamente circondati dai palazzi. No, io quei problemi non ce li ho. C'ho la porticina, apro la porta e sono sul terrazzo. Sì, da nonno c'era il terrazzo, però antenna di baracchino non ce n'era. Qua c'è il terrazzo, che vabbè, non è nostro, ma bene o male vedo che le cose te le fanno fare. Magari facciamo la faccia brutta, però se non fai danno, insomma, non credo ci sia problema, là. Tu per piazzare l'antenna il permesso non so che. Beh, per salire il permesso, non per piazzare l'antenna. Io avevo detto, avevo bussato a chi abitava su e avevo detto per l'antenna nuova, dico, perché io l'avevo piazzata già nel 92, ho detto dovrei cambiare l'antenna sul terrazzo che è vecchia. Sì, sì, ma avevano dato vecchia, non ho specificato che era di baracchino. Non ho visto il tecnico, nonché Pomponio, col materiale appresso, e non, nessun problema già. Poi magari hanno visto l'antenna e hanno detto questa antenna però è grande, è alta, e beh si è alta, non devono atterrare gli aerei sul tetto. C'è l'arrivo dei buchi che rovina la facciata, che deturpa proprio la facciata, è troppo grande, guarda. Beh, ci sarebbe quell'articolo di legge, praticamente se è un palazzo da tutelare, ma deve essere un palazzo antico di valore storico anche, come può essere, che ne so, a Sassari c'è uno che nominano ogni tanto, tipo Villa Mimosa, dove fanno anche, credo, convegni o manifestazioni, ricevimenti, ecco, quello posso capire, palazzo veramente storico, ma riconosciuto da non so quale ente, però per le case normali no, quelle sono fisime dei condomini, perché a te anche quello avevano detto. No, a me no, ma se dicete che ne hanno fatto storie perché c'è che deturpava la facciata. Sì, è perché l'antenna TV no. Hai visto? Ti ricordi? Adesso vabbè, si usano più le centralizzate. Ti ricordi una volta la selva di antenne TV sui palazzi? Perché quelle belle sono. Sono bruttissime. Sì, c'era una rastelliera che attaccava tutte le antenne in fila. E quindi Natali, ascolta, ma tu quale hai affittato? Dove avevi le radio, le antenne, quella in zona buona? Ehi. E poi lì c'era con proprietà o sbaglio? È un problema lì avere fratelli, perché riguarda meglio figli unici, avere per ereditare tutto e non avere rotture di ioni. Ma che andando grandoso. E vabbè, qua poco da ereditare c'è, cioè non abbiamo possedimenti, oro, gioielli, però certe volte una seccatura, perché quello non vuol vendere, si è vincolato, poi quando lo affitti anche a parenti, no, che hanno figli, non se ne vanno più, cioè, a vita magari sarei precluso dal poterlo utilizzare tu o vendere. Perché come hai detto, se sono minori, poi sono parenti, sai, non puoi nemmeno sfrattarli, nemmeno anche come hai detto tu per umanità. Quanti figli c'ha Sergio adesso? Due. E vabbè, già si è fermato giusto, dai. Il capo. E dove sta lavorando? In ferrovia stava lavorando, no? No. Io mi ricordo che ero andato in ferrovia a lavorare. Prima è verdura, poi in ferrovia. No. Lui non lo so adesso dove sta lavorando, la verità. Cappa. E vabbè, non siete molto, diciamo, non vi vedete molto, dai. Mai, non ci vediamo mai. Ah, per se cade giù lo cado si invita. Ma solo per telefono. I soldi mi arrivano tramite la carta postale, mi carica la carta lui. Ti fa un bonifico là sulla carta postale. Eia, non ci vediamo mai, perché io non ci salgo lì, perché sennò mi tocca bisticciare con quegli altri due teste di cazzo. Fatti a paradisi. Ma Angelo, mi meraviglio, perché Angelo con te andava d'accordo. A quello se lo trovo gli tiro due pugni a bocca e ne ricavo di cacciare con i denti. Come lo trovo? Guai, se lo trovo è tutito. Certo, se non la rigasciare. Già la rigasciare con i denti, quindi ricavo io però. Noia. Allora si è coalizzato con l'altra che prima andavi da goglio. Che fa? Adesso mi che ti chiami a cozzare un cancello a fare la seconda. Forse hanno il gatto di buoni. Vabbè, puoi andare tutti a ammazzarsi. Gliel'ho anche detto per telefono. Via, Ghidu, via, Ghidu di Bottodorra, via. Mi vedete cosa cazzo mi da tutti? Lì hanno ammazzarsi da parte mia. Puro no. Puro io, Ogu. Oh, guè, chissù. Già ci sarà la giustizia divina, non ti preoccupare. E ci saranno babbo e mamma che ci saranno rivoltando nella tomba per quello che hanno fatto. E beh, cioè, più bene fai e più cascina, se delle primiga. Te ne hai curati tutti i tuoi genitori, loro non sono interessati di nulla, bubu. E infatti proprio malissimo. Ho ragione a dire parenti serpenti. Ma con la riconoscenza, ma io non uscivo da casa, mi arrivo a chiamare, ma tu già bene a ciappare, ma chi lo chiuso in galera. Ti ricordi la battuta di Totò, dice, i parenti sono come le scarpe, più sono stretti più ti fanno male. E invece la mamma di Leoncino, lo sai cosa mi ha detto? La mamma proprio di Leoncino, che io la conoscevo, a lui, a lei, al padre di Leoncino, ha detto parenti serpenti, e chi si erano i baraurisanti? Sì, è così. Ma vabbè, purtroppo Natale ti hanno fatto tutti quanti l'esperienza, compreso io. E infatti. Ma poi perché questi bisticci tra parenti stretti? Per soldi sempre, no? Sempre per quello, eh. I soldi ne hanno tolto gli occhi a Santa Lucia. Capito? Aspetta un attimo che vado a tagliare l'anguria. Eia. E qui c'è Maria Dulentria, sia di Vidalia. Sì, anche quando praticamente noi non cercavamo nessuno, no, ma non si sentivano nemmeno loro da Taranto o dov'era. È morta una parente molto vecchia e toccava alla legittima tutti, che erano una marea di figli, non so quanti erano, e quindi era una miseria a testa, no? 7.000 euro a testa, no? E uno ha fatto la battutina del gruppo di WhatsApp, no? Per mettersi d'accordo sulle spese, su tutto. Dice, i soldi fanno tornare la vista ai ciechi. La battutina, no? Per dire tutti i magnazzoni, perché lui la sua parte non ce l'ha presa, mica ha rinunciato, no? Vabbè, poi me ne ho sempre di un pugnavo che so 7.000 euro, non ho capito, sono da una parte. Bah, se li siamo fumati, fumati, così puff. E vabbè, colpa nostra. Non sono niente 7.000 euro, 7.000 spiccioli era. Qua ti volevo dire, questi parenti tutti meridionali, uff, che ti hanno modo di fare, tipico da proprio da Terroni. E vabbè, non fare razzista adesso. Più di noi, cioè noi ancora, ma lì in certi, boh, vabbè, io sono prevenuto però. Guarda che i milanesi ci chiamano Terroni anche a noi, Sì, ma noi siamo a una latitudine leggermente maggiore, ma lì, Taranto, sai, è proprio la crema lì, da quelle parti, vabbè. Poi ce l'abbiamo mezzi pugliesi, mezzi calabresi, un po' di tutto, capito? Interessante che arrivi lo su di tutte le parti, Marco. Sì, ma per quelle cifre misere, e purtroppo sa cos'è, quelle erano famiglie del sud, che all'epoca facevano 10.000 figli, avevano 10.000 figli, quindi 10.000 nipoti, un casino di vivere sempre. È bello essere figli unici e avere i padri, purché avere i genitori abbienti. Io invece avevo uno zio che a 18 anni è partito in America, Detroit, e ha cominciato facendo facchinaggio al porto, così, poi ha fatto fortuna, è entrato in questa fabbrica, comandava tutti gli operai, una fabbrica enorme, comandava tutti gli operai, si doveva sposare e è stato sfigato perché la ragazza le è morta in un incidente pochi giorni prima di sposarsi, e poi non si è più risposato, quindi viveva con una famiglia italiana lì, cioè praticamente aveva la camera in affitto, viveva da tanti anni lì, poi praticamente si è trasferito qua a Milano perché lui era di Cuggio, un paese di Milano, è andato in una casa famiglia che era tipo albergo, lui era vecchissimo, aveva un sacco di soldi, è andato in questa casa famiglia dove sembrava un albergo, c'aveva tutto, televisore in camera, bagno, proprio stava bene. E quando è morto ha lasciato l'eredità tutta la casa famiglia, perché ci ha preso un tumore, era grande, ed è morto e ha lasciato tutti i soldi alla casa famiglia. A noi solo gli effetti personali ci ha dato, il borsellino vuoto con le carte di credito, che poi sono americane, non sa manco se andano vero o no. Non saprei quello. Vediamo se è entrato Natalino. Adesso un qua. Ma sono buone le angurie, sì, già. Guarda, io dico già, magari ci sono da me. Di quelle piccoline mie, Fred. Quelle sarde? Bambino. Perché vedo pubblicizzare sempre questa marca, mi pare che abbia un nome di donna, l'anguria sarda. Piccolina, e boh, stanno facendo un sacco di pubblicità, io non ho provato ancora. Bambino, è buona, è buonissima. Sì, quella. È buona, io l'ho presa tante volte. Sempre buona e poi senza sedi, capito? Di quelle vogliono che sono buone. E chi le vende di quella marca? Chi la vende di quella marca? Io lo prendevo al supermercato vicino a casa, ma ancora non ne sono arrivate quelle. Ce le hanno senza semi, ma non sono le gabbina, sono quelle un po' più grandi, non grandi grandi, ma sono più grandi. Infatti io la prendo già tagliata, perché essendo da solo, se ne prendo una mi rimane una. Quindi la prendo già tagliata, chiedo se è stata tagliata da moto, perché io ho le commesse che me lo dicono, capito? Ho già preso, la tranquillo che l'ho tagliata stamattina, e non me la prendo, capito? Ed è buona. Ok, beh, un attimino che mi chiamano e così se posso rientro dopo, se no ritenetevi super salutati. Sì, va bene Marco, dai, ci sentiamo, salutami tua madre. Sarà fatto. Cappa. Avanti Natale. Oh yeah. Va bene, io faccio corretti, dai, santo. Non ve li sciuro. Oh signor. Ah, ne è andato Tennessee.